Perfetto Notte. Le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. L'Italia non è più il salvadanaio in cui si viene a prendere i soldi senza avere ugualmente dei diritti e dei doveri. E siccome all'Ungheria e ad altri paesi europei dell'Est l'Europa ha salvato il futuro quando è venuto giù il muro di Berlino, proprio per questo diciamo noi siamo il continente che i muri li butta giù, non che li tira su. Vale per il mio amico Orban e vale per tutti gli altri colleghi, capi di Stato e di Governo. Amico Orban, insomma, in questo periodo, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, Renzi che sta polemizzando, ci sono, diciamo, c'è una specie di botta e risposta di ping pong in questi giorni tra il primo ministro ungherese Orban, ha iniziato lui effettivamente, e il presidente del Consiglio Renzi, quindi tra Italia e Ungheria, sulla questione dei migranti. Sapete che l'Ungheria sta tirando su un muro e dice: noi siamo solidali perché in questo modo così difendiamo anche le frontiere degli altri paesi, cioè diciamo questa idea un po' particolare della solidarietà, e Renzi dice: vabbè, se non ci volete aiutare, se volete fare i muri, allora è chiaro che possiamo rischiare di mettere dei veti al bilancio europeo. È una polemica che sta andando avanti e proseguirà. Noi ci occuperemo sì di politica, ma di politica per quanto riguarda il referendum. Domani c'è la grande manifestazione di Piazza del Popolo, del PD, per il sì, ma non ci sarà la minoranza, che sapete c'è una lacerazione da tempo all'interno del partito, perché la minoranza vorrebbe intanto che si modificasse l'italicum e parte della minoranza invece ha deciso di votare no. Ne parleremo con un'esponente politica e poi ci occuperemo naturalmente all'inizio anche di questa tragedia, di questo incidente incredibile, non tanto incredibile per l'Italia, di questo cavalcavia che nel tardo pomeriggio è crollato in Brianza, in Lombardia, e ci sono diversi feriti, un morto, ma potrebbe essere purtroppo un bilancio solo provvisorio. Voi per interagire con Effetto Notte lo sapete, ci sono sempre due canali, la pagina Facebook di Effetto Notte oppure il numero per WhatsApp ed SMS che è 349-238-6666, 349-238-6666. Intanto, come sempre, vi racconto che giornata è stata. Tragedia in Lombardia, crolla un cavalcavia sulla Milano-Lecco, coinvolte alcune auto in transito, ci sarebbero delle vittime, il bilancio provvisorio di un morto e 5 feriti, ma si temono altre vittime. L'ANAS aveva chiesto la chiusura della strada. Terremoto, sono oltre 900 le repliche del sisma del 26 ottobre tra Perugia e Macerata, finora registrate. Ussita dichiarata zona rossa, gli abitanti dicono vogliamo restare qui. La manovra economica, la legge di bilancio inviata al Quirinale. Migranti e bilancio europeo, nuovo scontro tra il primo ministro ungherese Orban e Renzi, entrambi minacciano il veto sul bilancio europeo. Iraq, truppe irachene alle porte di Mosul per un attacco imminente e l'ONU lancia l'allarme, decine di migliaia di civili catturati dall'ISIS. Politica italiana, manca il quorum sul regolamento del Movimento 5 Stelle, restano le espulsioni e per il referendum il PD domani in piazza per il sì, si tenta l'intesa sull'italicum. WhatsApp nel mirino dell'antitrust per presunte violazioni del codice del consumo, tra queste il contratto imposto agli utenti, secondo il garante. Benigni nei guai, sorpasso contromano a Roma, ritirata la patente al premio Oscar, i vigili urbani lo multano, rischia la sospensione da 1 a 3 mesi. Partiamo quindi da questo crollo, di questo cavalcavia nel pomeriggio sulla statale 36 Milano-Lecco. Nel crollo sono rimaste coinvolte alcune vetture. Una delle vetture, e si vede da delle immagini veramente drammatiche, è rimasta in bilico sul cavalcavia, proprio con le ruote anteriori che vanno giù e il resto della macchina che è rimasto sulla strada, sul cavalcavia spezzato. E un'altra macchina che stava transitando è stata catapultata sul lato opposto. Si parla di un morto e 5 feriti, tra cui 3 bambini, ma il bilancio purtroppo potrebbe essere provvisorio perché si temono altre vittime. L'ANAS, società che gestisce la rete stradale autostradale italiana, aveva chiesto la chiusura del tratto di strada dove si trova il cavalcavia nelle ore precedenti il crollo, ma la provincia ha chiesto un'ordinanza formale da parte dell'ente. Nel frattempo, dice l'ANAS, il ponte ha ceduto. Tra poco cercheremo di raggiungere telefonicamente chi era sul posto per capire la dinamica di quanto è successo. Il terremoto, il punto sullo sciame sismico nelle zone colpite dal sisma. Tra Marche e Umbria la terra continua a tremare dopo le due forti scosse di mercoledì sera. Sono oltre 900 le repliche registrate dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, che avverte lo sciame sismico durerà ancora settimane. Nei comuni terremotati la macchina dei soccorsi è al lavoro per assistere le oltre 4.000 persone rimaste senza casa. Sono circa 500 gli sfollati che da ieri sono ospitati negli alberghi della costa. Altri li seguiranno nelle prossime ore, ma sono ancora in molti quelli che non hanno intenzione di lasciare i loro paesi e che si preparano ora a trascorrere la terza notte in palestre, campeggi e altre strutture ancora agibili presenti sul territorio. Nel frattempo, nei centri più colpiti proseguono i sopralluoghi e gli interventi per la messa in sicurezza degli edifici lesionati e per valutare l'agibilità di quelli risparmiati dal terremoto. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Come sapete, molti i danni anche al patrimonio artistico. Lavori di consolidamento della facciata della chiesa di Sant'Agostino di Amatrice, gravemente lesionato anche il monastero di San Benedetto a Norcia. Recuperarlo entro Natale è l'obiettivo che si sono dati i monaci. Il crollo della facciata della chiesa di San Salvatore, sempre a Norcia, che risale al 1100, è il simbolo delle ferite che ancora una volta il terremoto ha inflitto al patrimonio culturale. A poca distanza dall'epicentro, anche Preci conta i danni. È crollata parzialmente la chiesa della Madonna delle Grazie, hanno subito un duro colpo il rosone e la facciata dell'abbazia di Sant'Eutizio. A Camerino è venuto giù il campanile del santuario di Santa Maria in Via di fine 1200. E c'è anche una storia letteraria ai margini del dramma dell'Italia centrale e quella dei manoscritti leopardiani conservati al Museo di Visso, in cui è inagibile tutto il centro storico. I documenti saranno trasferiti e messi in mostra a Bologna. Si tratta di 27 manoscritti autografi, compresi i 6 idilli, l'infinito, la sera del giorno festivo, la ricorrenza o alla luna, il sogno, lo spavento notturno e la vita solitaria. Annalita Ambrosio, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E più tardi ci collegheremo con l'inviato che sta percorrendo in questi giorni, l'abbiamo sentito spesso con effetto noto e non solo, i luoghi della zona rossa. Adesso parliamo della manovra economica, perché la legge di bilancio è stata inviata, è notizia di poco fa, al Quirinale, bollinata dalla Ragioneria Generale dello Stato. Il testo è un po' più asciutto, passando rispetto alle prime bozze circolate da 122 articoli a 104 in tutto. Tra le misure, nuovo calo del canone RAI, che da 100 euro del 2016 passerà ai 90 euro nel 2017, e si conferma il bonus mamme, 800 euro esentasse, e il bonus di 1000 euro per pagare le rette dell'asilo. Il presidente dell'INPS, a proposito di manovra economica, Tito Boeri, critica ancora il governo. Con gli interventi previdenziali contenuti nella manovra, il debito pensionistico italiano crescerà di 20 miliardi, più altri possibili 24 nel 2018. Queste le stime del presidente dell'INPS Boeri, il quale rivendica la bontà della sua proposta, che dice avrebbe invece abbassato il debito. Con tagli previsti solo dai 5.000 euro lordi al mese, Boeri ritiene poco credibile l'ennesima salvaguardia per gli esodati esclusi dalle precedenti manovre. Ci avevano detto che la settima sarebbe stata l'ultima, invece ora c'è l'ottava e ho già il tam tam della nona, spiega. Riguardo all'anticipo pensionistico, ritiene non conveniente l'ape volontario richiesto dal lavoratore, mentre i beneficiari dell'ape social potrebbero essere molti, anche se, come svelano i dati INPS 2015, 6,4 milioni di pensionati, pari al 39,6% del totale, percepiscono meno di 1000 euro al mese, una percentuale comunque in calo rispetto al 40,3% del 2014. Livia Zancanera, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E poi i migranti e il bilancio europeo. Appunto, in furia la polemica tra Italia e Ungheria sui migranti, con guerra di dichiarazioni tra Renzi e il primo ministro ungherese Orban. La querela italo-ungherese sui migranti esplode nel weekend, estendendosi fino a Bruxelles. Dopo aver attaccato con ironia l'Italia, il premier Magyaro Orban alza la mira, minacciando di porre il veto in sede europea contro quello che ha definito il rospo delle quote obbligatorie di ricollocamento migranti, e ipotizza Orban di adire fino alla Corte di Giustizia per bloccarle. Guerra totale, insomma, minaccia il premier ungherese se la presidenza di turno slovacca, peraltro sua alleata nel gruppo Visegrad dei paesi dell'Europa centrale, non toglierà le quote dall'agenda di lavoro a dicembre. Il contrattacco di Orban segue un'altra minaccia di veto, questa volta italiana, rispondendo all'Ungheria con Orban che ironizzava su Renzi in difficoltà e nervoso a causa del deficit di crescita e dell'arrivo in massa di migranti. Il premier aveva a sua volta attaccato: l'Italia è pronta a mettere il veto su un bilancio europeo che non contempli pari onori ed oneri. Insomma, o Budapest accetta i profughi ricollocati da Italia e Grecia oppure perde i preziosi fondi europei. Radio Radicale, Renzi aggiunge: l'Italia non è più il salvadanaio in cui si viene a prendere i soldi senza avere ugualmente dei diritti e dei doveri. Il tempo in cui l'Italia faceva il salvadanaio e basta, è finito. Nuove puntate si annunciano da qui a fine anno. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore. La politica interna: adesso 87.000 iscritti hanno votato online il nuovo statuto, non statuto, del Movimento 5 Stelle, un numero insufficiente a raggiungere il quorum del 75%, ma Grillo avverte: andiamo avanti. Il Movimento 5 Stelle non c'entra il bersaglio del quorum stabilito per la votazione sul regolamento, ma va avanti lo stesso. 87.000 iscritti partecipano alla consultazione sul non statuto. Oltre il 90% si esprime a favore e il 70% dice sì anche alle possibili espulsioni dei dissidenti. La deputata 5 Stelle Roberta Lombardi. Sul discorso del quorum c'è stata un'ordinanza del giudice di Napoli che ci assimilava a un'associazione e quindi metteva un certo tipo di soglia per la validità delle votazioni. Ma io penso che quando dei numeri così alti esprimano la volontà da parte degli iscritti di proteggere il Movimento 5 Stelle e andare ad espellere le persone che verranno riconosciute non in linea con le nostre idee, i nostri valori, ci sia poco da discutere. Il quorum era fissato al 75%. Mentre ha votato il 64% degli iscritti al blog. Beppe Grillo attacca: i nostri avvocati sono già al lavoro. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E sempre per la politica, domani il PD in Piazza del Popolo a Roma per il sì al referendum, ma la minoranza non ci sarà mentre si tenta un'intesa in extremis sull'Italicum. Una notizia che riguarda Vincenzo De Luca: il GUP del Tribunale di Salerno ha oggi rinviato a giudizio l'ex sindaco di Salerno, attuale governatore della Campania, Vincenzo De Luca, e altre 26 persone, tra cui i componenti della Giunta Comunale di Salerno nell'anno 2010, imprenditori e tecnici comunali. L'accusa per De Luca è di falso in atto pubblico per quanto concerne l'inchiesta riguardante la costruzione di Piazza della Libertà a Salerno. Notizie dall'estero: l'ingresso delle truppe di Baghdad a Mosul è imminente. La coalizione ha effettuato massicci bombardamenti aerei per colpire le postazioni dell'artiglieria di Baghdad e di Baghdadi, quindi dell'ISIS, e le forze della coalizione si preparano a supportare l'attacco della fanteria. Intanto la portavoce dell'ufficio dell'Alto Commissariato ONU per i diritti umani parla di decine di migliaia di civili catturati dall'ISIS per essere usati come scudi umani. Parliamo di social network. L'antitrust italiano ha deciso di indagare su WhatsApp e anche i garanti europei della privacy chiedono al social network di sospendere le novità annunciate in estate. Tutto nasce dalla decisione annunciata ad agosto da WhatsApp di condividere una serie di dati personali degli utenti, compreso il numero di telefono, con la casa madre Facebook. L'indagine aperta dall'autorità garante della concorrenza si aggiunge a quella del garante privacy di settembre e punta da un lato a capire se i consumatori siano stati di fatto costretti ad accettare le novità, dall'altro se esistano clausole vessatorie. Anche il gruppo che raccoglie i 28 garanti europei per la protezione dei dati personali ha scritto a WhatsApp per chiedere di sospendere la condivisione dei dati con Facebook per consentire di approfondire la questione e i risvolti legali. Vedremo ciò che riusciranno ad ottenere le authority, ma di fronte ai tentacoli dei social network che usano i nostri dati per la pubblicità, anche ai consumatori è richiesta sempre più attenzione. Enrico Pagliarini, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E venerdì c'è in vista un ponte, inizia in queste ore per i più fortunati il Ponte di Ogni Santi, non solo le tradizionali visite ai defunti, per molti italiani sarà vacanza. 4 giorni di ponte e previsioni di sole, e così saranno in molti ad approfittarne, in barba spesso alla tradizione della festività dei defunti. Circa 7 milioni gli italiani in viaggio da oggi ai prossimi giorni, più del 90% delle persone in partenza rimarrà in Italia, un dato positivo per il presidente di Federalberghi, Bernabò Bocca. Pur in una situazione economica ancora difficile, ha detto, il turismo mostra segnali di tenuta che lo pongono al centro del sistema produttivo nazionale. nazionale. Le località di montagna e le città d'arte saranno quelle più frequentate, ma non dimentichiamo che il nostro paese è leader mondiale delle vacanze in campagna. Sono 400.000 gli italiani che per questo ponte hanno scelto l'agriturismo, lo segnala la Coldiretti. La spesa media si attesterà sui 260 euro a testa, il che significa un giro d'affari complessivo di 1,8 miliardi. E ad aiutare il clima, previsto soleggiato e mite. Attenzione però al traffico, sulle autostrade si prevede un weekend da bollino nero. Eugenia Fiore, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E a proposito di guidare con prudenza nelle ore giuste, insomma, Benigni al volante è finito dei guai, patente ritirata al premio Oscar Roberto Benigni, accaduto ieri a Roma davanti alla Galleria Nazionale di Arte Moderna e Contemporanea. Secondo quanto si è appreso, a conferma di quanto anticipato dal quotidiano Il Tempo, Benigni avrebbe effettuato un sorpasso di una serie di auto incolonnate, invadendo la corsia opposta a sorprenderlo una pattuglia della Polizia Municipale del gruppo Parioli. A quanto riferito c'è stato il ritiro della patente e il verbale. Ora i vigili hanno inviato il tutto alla prefettura, che stabilirà i tempi della sospensione, solitamente da 1 a 3 mesi. E sui guai al volante di Benigni direi che il riassunto della giornata è completo. Tra poco comincerò, come sempre dopo la viabilità, a approfondire i vari temi con gli ospiti. E voi potete continuare a mandare i vostri messaggi al 349-238-6666, che è il numero per WhatsApp o SMS, oppure sulla pagina Facebook di Effetto Notte. Michi scrive: ha ragione Boeri, presidente dell'Inps, come al solito soldi a pioggia, hanno sbagliato prima e sbagliano ancora, a proposito delle alcune critiche di Boeri sulla manovra. Poi c'è Nicola che si fa una domanda che anch'io mi sto facendo a proposito del cavalcavia crollato, di cui parleremo tra poco. Dice: i cavalcavia hanno una portata di peso, quanto pesava quel camion? Era più della portata, perché spesso in strade piuttosto strette o in piccoli ponti si nota un cartello dove c'è scritto qual è o l'altezza massima di chi deve passare o il peso massimo. Quindi tra poco ci collegheremo con il cronista che è stato sul posto e capiremo se c'era anche questa indicazione oppure no. A tra poco. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Rieccoci insieme, sempre Roberta Giordano con voi, il riassunto quindi della giornata che avete appena sentito, tante le notizie, adesso alcuni temi in particolare. Naturalmente torneremo tra poco sui luoghi del terremoto, abbiamo sentito anche nei servizi a quanto sono incalcolabili i danni anche per il patrimonio artistico, naturalmente, e in particolare non solo la sofferenza delle persone che hanno perso in questo caso le abitazioni o sono inagibili o insomma hanno perso a volte anche proprio le radici con quello che chiamano, con la propria anche identità territoriale, no? Alcuni hanno già subito questo trauma il 24 agosto, nell'agosto scorso, e in varie zone insomma si è ripetuta questa tragedia. Ci collegheremo tra poco quindi con Daniele Morini, che ha seguito in questi giorni. E però prima vorrei sentire, ma lo sentiremo tra pochi istanti perché stiamo cercando di raggiungerlo, un cronista che era sul posto oggi in Brianza, dove c'è stato questo crollo pazzesco di un cavalcavia sotto il peso di un trasporto eccezionale di un tir con varie macchine coinvolte, e il bilancio è ancora provvisorio. Intanto però continuo a arrivare i vostri messaggi al 349-238-6666, alla pagina Facebook di Effetto Notte. Dice per esempio Nicola, questo era il messaggio di prima, un altro ascoltatore invece dice: la metafora, l'emblema del crollo del paese nell'indifferenza di chi ci governa malamente negli ultimi anni. Questo lo scrive Roberto. Intanto vi ricordo, se non avete acceso puntualmente le 21, le notizie principali. Migranti e bilancio europeo, guerra dei veti tra il primo ministro ungherese Orban e Renzi. Intanto la manovra arriva al Quirinale e il ministro Padoan dice: rispetta le regole. Poi crolla un cavalcavia nel Lecchese, un morto e 3 feriti, ma si temono altre vittime, auto in trappola, e l'ANAS aveva chiesto la chiusura di quella strada. La terra continua a tremare tra Marche e Umbria, polemiche sugli aiuti, gli sfollati sono moltissimi, oltre 900 le repliche in 2 giorni, le repliche delle scosse, si contano i nuovi danni. anni. E poi per quanto riguarda l'Iraq, le truppe irachene che sono alle porte di Mosul, la roccaforte, come ormai saprete, dell'ISIS, attacco imminente, parlano di un attacco imminente, mentre l'ONU denuncia decine di migliaia di civili catturati dall'ISIS. Manca il quorum sul regolamento del Movimento 5 Stelle, che è stato votato online, resta il punto delle espulsioni. Intanto il PD domani sarà in piazza per il sì al referendum, si tenta l'intesa sull'Italicum con la minoranza del PD. E poi cessione di dati a Facebook, antitrust indaga su WhatsApp e il sorpasso contromano a Roma di Benigni, a cui è stata ritirata la patente. Quindi soffermiamoci sul crollo di questo cavalcavia nel pomeriggio sulla statale 36 Milano-Lecco. Nel crollo sono rimaste coinvolte alcune vetture, una delle vetture è rimasta addirittura in bilico, vi dicevo prima, sul cavalcavia spezzato, ma ci faremo raccontare tra poco anche di queste immagini pazzesche. Si parla di un morto e cinque feriti, ma purtroppo potrebbe essere un bilancio provvisorio. E poi l'ANAS, la società che gestisce la rete stradale e autostradale italiana, che sembra avesse chiesto la chiusura del tratto di strada, questo l'ha scritto in un comunicato l'ANAS, dice la chiusura della strada dove si trovava il cavalcavia nelle ore precedenti al crollo, l'aveva chiesto, ma la provincia ha chiesto un'ordinanza formale da parte dell'ente, nel frattempo il ponte ha ceduto e un ascoltatore scrive la burocrazia che fa questi danni terribili. Guglielmo De Vita, cronista del quotidiano La Provincia di Lecco, buonasera Guglielmo. Sì, buonasera. Tu eri sul posto, no? Sei stato lì dove sì. È successo questo incidente. Sono rientrato un'oretta fa dalla superstrada 36, era veramente una scena apocalittica per quello che si poteva vedere. C'era questo tir letteralmente sdraiato sulla super con almeno due auto schiacciate sotto. Mm. Il bilancio allo stato attuale è fortunatamente non pesantissimo, nel senso che allo stato attuale si parla di una vittima, il conducente di una delle due auto, e poi gli altri feriti sono tutti in codice giallo, non sarebbero in pericolo di vita, compreso il conducente del camion. Speriamo che il bilancio si fermi qui, Guglielmo, perché poteva essere veramente una strage con quello che è successo, no? Questo cavalcavia aperto in due che crolla, il tir che poi a sua volta cade su altre macchine, insomma. È vero, ed è anche l'impressione di tutti i soccorritori, ho parlato con Vigili del Fuoco, Carabinieri, Polizia Stradale, tutti quelli che sono arrivati inizialmente temevano che il bilancio potesse essere molto più grave, invece per ora siamo a questo. Vedendo come erano ridotte le due auto coinvolte, ha del miracoloso come sia riuscito a uscire indenne il conducente di una Fiat Punto di colore rosso, ma ci ha raccontato che lui si è buttato tutto sulla destra, ha sterzato sia la macchina che il proprio corpo, il che gli ha permesso di evitare di essere schiacciato dalla cabina del camion. Guglielmo, senti, l'ANAS, appunto, hai sentito in questo comunicato, dice che aveva chiesto la chiusura, che c'erano già stati dei segnali, non so se in mattinata o nei giorni precedenti, e però la provincia avrebbe chiesto un'ordinanza formale da parte dell'ente per poterla chiudere. E diciamo che sotto questo punto di vista sono anch'io aggiornato ai comunicati dell'ANAS che ci hanno fatto. Guarda, è uscita un'agenzia in questo momento, la Procura di Lecco ha aperto un'inchiesta sul crollo del cavalcavia di Annone che ha causato una vittima e alcuni feriti. L'inchiesta, affidata al procuratore capo, sarà con tutta probabilità per omicidio colposo e disastro colposo, saranno sentiti i testimoni e acquisita la documentazione, quindi bisogna capire ancora bene la dinamica e quali sono le responsabilità. Evidentemente qualche responsabilità per il crollo di un cavalcavia. Senti, mi chiedevo e chiedeva anche un ascoltatore se c'era un cartello, qualche indicazione che avvisava che, non so, poteva supportare un peso non oltre una certa cifra quel cavalcavia o no? Io ero sulla superstrada e quindi non potevo vedere sopra se sulla provinciale 49 ci fosse o meno un cartello. Quello che ci hanno fatto sapere è che questo camion era un trasporto eccezionale autorizzato dalla provincia. Quindi quando sono trasporti eccezionali di solito sono anche molto pesanti, molto ingombranti, no? Trasportava del ferro, però che se ci fossero o meno i cartelli sulla provinciale 49, quella che è praticamente il ponte crollato, io non potevo vederli da sotto, non ne sono al corrente, ecco. Senti, comunque per il momento si erano in codice giallo i feriti, tra cui tre bambini, se non sbaglio, c'erano sì, bambini, I bambini sarebbero illesi, ma mi dicevano che li hanno portati in codice giallo solo per, a scopo precauzionale. Il più grave è il conducente del TIR, che è un cittadino di nazionalità rumena, ma che mi dicevano essere cosciente, che era un trauma toracico. Poi aveva rifiutato il ricovero l'automobilista della Punto Rossa, il Miracolato, e niente. Ecco, i due punti, c'erano ancora due incognite: quante persone ci fossero a bordo dell'Audi bianca, perché a vederla si capiva che lì dentro non poteva esserci nessun sopravvissuto, e in effetti c'era solo il conducente. Allo stato attuale ci hanno riferito questo, e poi si parlava della presenza di un motociclista, però per ora traccia di questo motociclista non ce n'è. Ecco, in questo elemento positivo, perché se fosse rimasto sotto il ponte l'avrebbero visto a questo punto, quindi diciamo che almeno la perlustrazione dovrebbe essere stata completata, più o meno, per quanto riguarda è persone ancora presenti. Ancora in corso. Per sì, quello sì, che sì, ancora diciamo in modo cautelare si dice, il bilancio potrebbe essere provvisorio. Speriamo che si fermi qui. Grazie Guglielmo De Vita. Grazie. Prego. Ciao. A voi. Ciao, buon lavoro. Ciao, ciao. Lo ricordo, cronista del quotidiano La Provincia di Lecco. Adesso invece ci spostiamo nelle zone del terremoto. La terra lì continua a tremare, sono state oltre 900 le repliche, come si dice, no? del terremoto del 26 ottobre fra Perugia e Macerata, finora registrate. Il primo forte terremoto di mercoledì di magnitudo 5.4 può essere considerato, come è stato detto dai sismologi in questi giorni, una replica del sisma del 24 agosto scorso. L'Istituto di Geofisica e Vulcanologia e Protezione Civile erano pronti a intervenire nel caso in cui il frammento di crosta tra Marche e Umbria fosse crollato, perché appunto si prevedeva, ma non si sapeva quando, quello spostamento di faglie, di fratture, di croste terrestri che c'era stato il 24 agosto poteva di nuovo spostarsi. Cosa è successo mercoledì secondo i sismologi? Un pezzo di crosta terrestre lungo 17-18 km, largo 10 e profondo 9 è caduto di poco più di mezzo metro. Ne parliamo con Daniele Morini. Ciao Daniele. Sì, ciao, buonasera. Che in questi giorni ha percorso quelle zone. Mi pare che ci siano state anche polemiche sugli aiuti di sfollati. Oggi era il sindaco di Caldarola che si lamentava la mancanza di aiuti, poi mi sembra che siano arrivati molti oggi, appena lui insomma si è lamentato di questa cosa. Poi ci sono gli sfollati di Ussita, che è proprio l'epicentro, no? Che rifiutano di trasferirsi sulla costa. Che racconti hai oggi da quelle zone, Daniele? Sì, abbiamo girato anche oggi un po' in lungo e in largo, in particolare appunto su Ussita. Diciamo che nel dramma complessivo, anche se la mancanza di vittime, di morti rispetto al 24 agosto soprattutto rende, come dire, più morbido, se possiamo usare questo termine, questa bruttissima comunque calamità naturale, questo dramma comunque che ha colpito tantissime persone. Ecco, in quel quadrangolo dei quattro paesi, un po' zone dell'epicentro e delle tante repliche di queste ore, forse quelli di Ussita, non dico siano i più fortunati, ma sono quelli che a livello di accoglienza, proprio usciti dalle loro case, forse hanno trovato la situazione migliore, perché le due strutture, i due camping, i due campeggi di questa località turistica, nota almeno fino a qualche anno fa, sia per l'estate, per la stagione estiva che per quella invernale, sono di fatto alloggiati quasi tutti lì, nel senso in casette di legno e bungalow. Questo quindi rende comunque più agevole, diciamo, no? Ecco, la vita da sfollati, perché sono comunque a poche centinaia di metri o pochi chilometri dalle loro abitazioni. Tra l'altro leggevo Daniele che il sindaco di Ussita ha detto: non andiamo via perché altrimenti scompariamo, cioè la paura che si svuoti questo piccolo paese, che appunto poi diventi un luogo di nessuno. Dice: non faccio come Schettino, questa è la vocazione, dice: ci vorranno 5-7 anni per ricostruire le case, ma dobbiamo rimanere, se no la frittata è fatta, no? Assolutamente sì. Qualcuno parlava di paesi senza bambini, riferendosi proprio ad Ussita, a Castel Sant'Angelo sul Nera, più che rispetto a Visso, dove comunque c'è un tessuto sociale più variegato, se vogliamo, anche con ragazzi e bambini. Ecco, Ussita è il classico paesino dove i più giovani magari si sono trasferiti altrove o tornano per i lavori stagionali appunto quando c'è flusso turistico. E appunto il sindaco stesso Rinaldi diceva che Ussita è ad un livello di inagibilità che sfiora il 90%, insomma, quindi seppur con pochi crolli clamorosi, se vogliamo dire così, o comunque da fotografia, quelle che vediamo sui siti web, sui giornali, però il 90% di inagibilità delle case è una percentuale altissima. Tra l'altro, proprio stando ad Ussita questa mattina, sempre per rifarci alla cronaca, abbiamo assistito proprio in diretta con i nostri occhi al fermo dei due sciacalli di cui ha dato poi conto la cronaca, nel senso che ci siamo accorti ad un certo punto, intorno all'ora di pranzo, che quattro pattuglie della polizia ed una dei carabinieri avevano circondato un'auto bianca, una Punto bianca, che aveva a bordo due persone, due giovani, insomma, con vestiti poco adatti, diciamo, a questa situazione: calzoni con la piega, un panama scuro in testa, giacconi col bavero alzato, ma non perché ci sia nulla di strano, però insomma in un contesto, in quel contesto lì abbastanza diciamo disastrato, questi due, e poi erano lì per rubare, che è veramente una cosa di una così disumana, no, in certi momenti, quando ci sono le catastrofi, quando approfittare proprio come gli sciacalli, no, di andare, esatto, così sembra insomma che quelle fossero le intenzioni, un rumeno e un moldavo, a quanto pare tutti e due pregiudicati. E avevano una cassetta di attrezzi da scasso. Sono stati fermati comunque, Daniele, questo è l'importante. Sì, sono stati fermati, sembra che verranno denunciati a come piede minimo. Grazie Daniele Morini, grazie, buon lavoro. Grazie, ciao, dai ciao. Luoghi del terremoto, Daniele Morini. Intanto io ho annunciato che avremmo sentito anche uno psicoterapeuta per capire come affrontare questo trauma, come superarlo, perché mina non solo le fondamenta delle case, ma anche spesso dell'equilibrio psicologico delle persone. Però non ci sarà tempo, perché c'è stato questo imprevisto del cavalcavia. Torneremo a parlarne nei prossimi giorni. Intanto 349-238-6666, pagina Facebook di Effetto Notte. Luciano scrive: io abito nel Maceratese, in una casa che ha 200 anni senza nessuna norma sismica. La notte si dorme con un occhio chiuso, uno aperto. Credo solo che con il tempo la situazione di calma e queste ansie da sisma andranno a terminare, ma ci vuole tempo e tranquillità. Ve lo auguriamo. A tra poco. Radio 24 verso la Casa Bianca. Chi sarà il 45esimo presidente degli Stati Uniti? La sfida tra Hillary Clinton e Donald Trump al giudizio del voto. Radio 24 ti racconta l'America che verrà attraverso un lungo viaggio di avvicinamento in onda dal 1 novembre. Ascolta gli approfondimenti nei programmi, i servizi e gli speciali verso la diretta non-stop che ci porterà alla proclamazione del vincitore. Verso la Casa Bianca, da ascoltare e da leggere su Radio 24 e radio24.it. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. E se state ascoltando Effetto Notte, siete al posto giusto, nel momento giusto, anche con la giusta conduttrice, con voi Roberta Giordano. Adesso andremo sulla politica, vi ricordo tra poco i titoli principali. Intanto un ascoltatore dice: ma quanti saranno i cavalcavia pericolosi in Italia a nostra insaputa? Come facciamo a essere tranquilli? Chiede Roberto da Terracina. Bella domanda, caro Roberto. Intanto allora vi ricordo i titoli. Tragedia in Lombardia, crolla un cavalcavia sulla Milano-Lecco, coinvolte alcune auto in transito, ci sarebbero delle vittime, il bilancio provvisorio di un morto e 5 feriti, ma si temono anche altre vittime. L'ANAS aveva chiesto la chiusura della strada, la provincia di Lecco apre un'inchiesta per omicidio e disastro colposi. Terremoto, sono oltre 900 le repliche del sisma del 26 ottobre fra Perugia e Macerata, finora registrate. Ussita dichiara zona rossa, gli abitanti dicono vogliamo restare qui. Manovra economica, la legge di bilancio inviata al Quirinale, migranti e bilancio europeo, nuovo scontro tra il primo ministro ungherese Orban e Renzi, entrambi minacciano il veto sul bilancio. E poi politica italiana, manca il quorum sul regolamento del Movimento 5 Stelle, restano comunque le espulsioni, e per il referendum il PD domani in piazza per il sì. Benigni nei guai, sorpasso contromano a Roma, ritirata la patente al premio Oscar. Adesso soffermiamoci sulla politica italiana con il referendum costituzionale, la settimana in cui si entra nel vivo delle manifestazioni e comincia il conto alla rovescia in vista appunto del voto il 4 dicembre. Domani a Roma c'è la manifestazione nazionale del PD favorevole al sì. Il Presidente del Consiglio Renzi ha scelto personalmente Piazza del Popolo, si attendono 50.000 persone, secondo alcuni sono cifre un po' ottimistiche, comunque sono 350 pullman, 6 treni speciali più 2 aerei dalla Sicilia e dalla Sardegna. Lo slogan che farà da sfondo alla piazza è sì a un'Italia più forte, a un'Europa più giusta. La manifestazione inizia alle 14, Renzi poi la chiuderà, è considerata come la piazza dell'orgoglio del Partito Democratico, sarà però disertata dalla sinistra Dem che è per il no al referendum, o almeno si cerca questa intesa in extremis sull'Italicum. Un PD quindi ancora travagliato, chiedo all'onorevole Anna Ascani, deputata PD. Buonasera onorevole. Buonasera a tutti voi. Ma in realtà il Partito Democratico è oggi l'unica grande comunità politica che ha aperto una discussione al proprio interno, che il testo su cui chiama a votare i cittadini l'ha discusso al proprio interno e poi l'ha votato compattamente in Parlamento. Quindi direi che quello che facciamo domani in piazza, fuori, con i cittadini a Roma, è semplicemente rivendicare l'orgoglio di essere una grande comunità politica. E quindi, insomma, lasciamo ad altri i problemi sul quorum, le espulsioni. Oggi, per fortuna, non sono all'ordine del giorno del Partito Democratico. Onorevole Ascani, per il sì, no, naturalmente, domani la vostra manifestazione. Però, ma chi dice, per esempio, che il bicameralismo non viene in realtà superato con questa riforma, perché continuano a esserci due camere e che legiferano su alcune materie comunque insieme? Che cosa risponde? Guardi, gli uffici della Camera, che a volte non sono molto generosi con i nostri provvedimenti, dicono che il 93% delle leggi che abbiamo approvato in questa legislatura le approverebbe solo la nuova Camera dei Deputati. Quindi è evidente che, al netto di quello che possiamo dire noi, i tecnici ci dicono questo. Certo che restano due Camere, però una Camera fa il lavoro della Camera dei Deputati, rappresenta la nazione, approva le leggi, vota la fiducia al governo, la legge di bilancio. L'altra invece rappresenta le autonomie locali e, mi permetta di dire, non è per niente un dopolavoro, perché chiunque conosca un sindaco, un presidente di regione, conosce anche le processioni dei nostri amministratori locali, che sono costretti a visitare gli uffici periferici del ministero per capire quali decisioni vengono prese a Roma che toccano i loro territori. Ecco, noi invertiamo tutto questo, facciamo in modo che siano i territori a decidere sui territori, ovviamente d'accordo con lo Stato. Però c'è una Camera che dà dignità e riconoscimento all'autonomia locale, come avviene in tanti altri luoghi d'Europa, peraltro. Allora, i senatori sarebbero, se passasse la riforma, consiglieri regionali e sindaci, numero di, sì, di 101, no? Se non sbaglio. Però la cosa che a molti non è ancora chiara, chi elegge questi senatori? C'è un po' di poca chiarezza. Guardi, su questo. Le leggi elettorali non sono dentro le costituzioni, ma non è che non ci sono perché non ce l'abbiamo voluta mettere noi, perché la legge elettorale è materia che sta al di fuori della Costituzione. Noi gli diciamo semplicemente che i senatori sono eletti conformemente alla volontà popolare, dopodiché il PD ha fatto un passo in più nell'ultima direzione, ha detto: noi partiamo dalla bozza Chiti Fornaro, che dice avranno i cittadini nella scheda la possibilità di indicare chi vogliono come senatore. Ovviamente partiamo da lì, perché come è noto in questo Senato noi da soli non abbiamo la maggioranza e quindi dovremo costruire un accordo almeno all'interno della coalizione di governo, però la ragione per cui non è chiaro come vengono eletti i senatori è molto banale, che le leggi elettorali si fanno al di fuori della Costituzione. Finché non approviamo il nuovo Senato, di certo non possiamo approvare una legge elettorale che dice come eleggeremo il nuovo Senato. Senta, onorevole Ascani, ieri Grillo sul suo blog ha scritto la ragioneria dello Stato sui risparmi, col proprio bollino, ha detto che sarebbero con questa riforma 57,7 milioni di euro e non i 500 milioni di euro l'anno di cui parla il PD e il governo. Guardi, io temo che Grillo sia molto spaventato dall'idea di perdere qualche senatore, qualche fondo ai gruppi che qua e là hanno accumulato, perché poi di fatto questa è la verità, cioè i dipendenti dei gruppi del Movimento 5 Stelle vengono pagati con i fondi dei gruppi, e quindi capisco anche il suo spavento. I risparmi sono evidenti, poi io, più che dividermi sui numeri dei risparmi, dico semplicemente: da un lato c'è chi vuole tagliare, dall'altro c'è chi vuole che tutto rimanga così com'è. Io mi aspettavo che la grande forza rivoluzionaria del Movimento 5 Stelle ci proponesse un cambiamento. Devo prendere atto che invece sono diventati maggiori attori della conservazione. Onorevole Ascani, però loro hanno proposto in questi giorni di dimezzare gli stipendi dei parlamentari. In più, se la questione è quella dei costi, perché non dimezzare i deputati della Camera, si chiedono in molti? Guardi, loro in questi giorni hanno fatto saltare il banco su una proposta di riduzione di stipendio dei parlamentari su cui si stava lavorando insieme. L'hanno fatto perché gli serviva uno show da dare in pasto a qualcuno, tant'è vero che poi la piazza dove hanno chiamato a raccolta i militanti ha raccolto più fotografi che militanti, e questo è cosa nota. La ragione per cui noi decidiamo di eliminare il Senato è semplicemente che stiamo riformando le istituzioni perché funzionino. Cioè l'esigenza non è semplicemente quella di sobrietà, che è evidente, ma anche un'esigenza di efficacia. Cioè noi dobbiamo avere una Camera che faccia il lavoro di rappresentare la nazione, e va bene la Camera dei Deputati, e di là invece una Camera delle Autonomie. Cioè dalla prossima volta un parlamentare su tre non c'è più. Questa è l'unica verità che va detta su questa riforma. Cioè oggi ci sono 315 senatori e 630 deputati, domani ci saranno 630 deputati, punto, perché i 100 senatori non hanno nessuna indennità. Da un lato c'è chi lo vuole fare, dall'altro c'è chi invece ha paura di perdere qualche senatore, comprensibile ma un po' triste. Non avranno l'indennità ma avranno l'immunità, che tanti lascia perplessi questa cosa, perché c'è uno che fa il sindaco, poi quando nella veste di senatore ha l'immunità anche quando fa il sindaco, per cui se dovesse prendere alla peggio delle mazzette o qualcosa ha sempre questa immunità come sindaco. Guardi, in questo paese abbiamo confuso l'immunità con l'impunità, sono due cose molto diverse. I nostri costituenti avevano pensato l'immunità in un sistema di pesi e contrappesi, e peraltro i sindaci e i consiglieri regionali sono quelli che sono scelti direttamente dai cittadini. Cioè piuttosto che porsi il problema dell'immunità, dobbiamo porci il problema di chi mandiamo in Parlamento. Il problema non è l'immunità, è come è stata utilizzata da alcuni, certamente non da noi. Io personalmente ho sempre votato ogni autorizzazione a procedere, perché l'unico motivo per non votarla è che ci sia un fumus persecutionis. I nostri costituenti l'hanno pensato per far sì che ci fossero pesi e contrappesi tra potere legislativo e giudiziario. Però la storia della Costituente va un po' conosciuta, e temo che chi oggi sostiene il no, in particolare il fronte di Grillo, abbia qualche problema di base con la lettura della Costituzione. Se non altro sono quelli che dicono che abbiamo un premier non eletto e non sanno che in Italia non esiste né il premier, perché si chiama Presidente del Consiglio, e soprattutto non esiste l'elezione diretta, da sempre, non da ora. Parlavano del fatto che c'era stata questa, che non era stato eletto il Parlamento, che c'era il Porcellum, per cui il Parlamento sarebbe stato delegittimato secondo la Corte Costituzionale, eccetera eccetera. Insomma, la questione poi diventa un po' complessa. Abbiamo sempre un problema di lettura, però, perché la sentenza della Corte Costituzionale, che dichiara incostituzionale l'Italicum, dice che questo Parlamento deve fare le riforme, quindi forse come sempre, oltre il titolo va letto pure il contenuto. È più faticoso, ma di solito prende. Onorevole Anna Scani, la ringrazio e la saluto. Grazie a voi, buona serata. Grazie, buona serata. Poi naturalmente ci sono le manifestazioni per il no. Sabato comincia poi questa sfida nelle piazze, il comitato per il no di Gustavo Zagrebeschi, che è impegnato in iniziative città per città. Poi ci sono gli studenti per il no, che organizzano una mobilitazione di piazza in tutta Italia. A Roma sono 20 le piazze coinvolte, da Centocelle a Cinecittà. È probabile anche proprio un flash mob in Piazza del Popolo, ovvero nella Piazza del Sì, dove ci sarà, ne abbiamo appena parlato, la manifestazione del PD. Poi c'è l'AMPI, l'Associazione Nazionale dei Partiti, che farà una staffetta di 24 ore per il no il 4 e 5 novembre via streaming, a cui parteciperà tra gli altri Ottavia Piccolo, Monio Vadia, Stefano Rodotà, Susanna Camusso, eccetera. Ci fermiamo qui per il momento. Voi vedo che continuate con le vostre riflessioni sui carichi eccezionali. Qualcuno dice il trasporto speciale autorizzato ha sempre un tragitto precostituito, qualcun altro chiede ma hanno verificato che poteva passare. Insomma, sono tutte cose che adesso dovranno venire fuori con questa inchiesta per omicidio e disastro colposi. A tra poco. Effetto notte. Le notizie in 60 minuti. Notizie che vi ricordo in pochi secondi, sempre Roberta Giordano con voi, tra poco ci sarà anche lo spazio europeo. Scrive un ascoltatore, voi potete continuare a scrivere sulla pagina Facebook di Effetto Notte oppure al 349-238-6666, dice non diciamo sciocchezze, un ponte deve essere progettato per supportare un carico almeno doppio del consentito, pertanto c'è una sola risposta, corruzione e lavori fatti con materiali scadenti per massimizzare il guadagno ed avanzare i soldi per le tangenti, come all'Aquila, ad Amatrice, a Roma, a Napoli, in Sicilia, dice strada crollata pochi giorni dopo l'inaugurazione.

Buonasera Roberta, stavolta non ti deludo, ci attendono 4 giorni di bel tempo, sarà un ponte meraviglioso direi in tutta Italia. L'unica regione un po' a rischio è la Sicilia, che domani potrebbe avere qualche temporalino, ma davvero poca roba sostanzialmente, quindi andiamo verso un periodo tranquillo anche come temperature. Beh, guarda, nelle ore centrali del giorno da nord a sud toccheremo i 20 gradi, forse anche qualcosina di più, quindi davvero un ponte molto piacevole, tra l'altro non solo in Italia, chi fosse in partenza per le grandi capitali europee dovrebbe sempre trovare condizioni buone. In ultimo ti anticipo che però verso il 10 di novembre sembra arrivare aria molto più fredda sull'Italia, a quel punto probabilmente volteremo pagina. Va bene, fermiamoci qui per il momento, mi paiono buone notizie, viviamo nel presente. Grazie Paolo Corazzon, buon tempo a te comunque. Grazie, sia. Grazie, buon tempo a tutti. Ciao Paolo, ci riaggiorniamo alle 22.